Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo dei nostri amici animali, quelli che teniamo in casa, che ormai sono diventati dei veri e propri familiari. E come è cambiato il nostro atteggiamento nei confronti degli animali? Che cosa rappresentano questi ultimi per noi? Risponde a queste domande Guido Guerzoni, che è un esperto di economia e gestione dei musei e del mercato dell'arte, ma che è stato particolarmente attratto dal tema degli animali da compagnia dopo essersi associato al larghissimo club, fatto in Italia da 35 milioni di persone, nel mondo da 3 miliardi e mezzo di persone che appunto vivono con un animale in casa. Un club che rappresenta, scrive l'autore, un'autentica maggioranza silenziosa. Il suo libro si intitola Pets, come gli animali domestici hanno invaso le nostre case e i nostri cuori, pubblicato da Feltrinelli, 252 pagine, 17 euro. E qui troveremo un'analisi molto approfondita in tanti suoi aspetti, ma sempre leggera e a tratti perfino umoristica, del mondo dei pets e della relazione di questo col mondo degli uomini. Infatti un capitolo si intitola appunto Vite parallele ma ugualmente felici. Si parla di quanti sono questi animali, dei vizi cui li abbiamo abituati, della sanità, della moda, dell'economia dei pets, un'economia di tutto rispetto, posto che oggi il settore è calcolato che valga in tutto il mondo almeno 160 miliardi di euro annui, laddove il mercato italiano, scrive l'autore, ne quota più o meno 3 miliardi e mezzo. E anche l'aspetto legato all'occupazione è molto importante. In tutta Europa il settore vale infatti 780.000 occupati a tempo pieno. Insomma, parliamo di tanti aspetti su questo libro e adesso ne approfondiamo alcuni con l'autore. Buonasera a Guido Guerzoni. Buonasera. Guido Guerzoni, nel suo libro un paragrafo si intitola Da padroni a padri, anzi lei parla di genitori permissivi e premurosi, naturalmente nei confronti dei pets, degli animali da compagnia. Questa differente terminologia da padrone a padre illustra un radicale mutamento nei rapporti che lei descrive tra uomo e animale. Sì, è avvenuto velocemente negli ultimi 10 anni. Ancora agli anni 90 si parlava di umanizzazione dei pets e del loro ingresso nel perimetro dei rapporti familiari. Negli ultimi 4-5 anni il termine che ricorre in tutta la trattatistica, ma non solo accademica, anche nella terminologia del mercato, è parentizzazione, che è una traduzione di parenthood anglosassone, che è una genitura, vuol dire che ci sentiamo padri e madri, quasi fossero già equiparandoli, insomma, agli affetti che proviamo per i figli bipedi biologici. E questo non è una prerogativa di realtà isolate dal punto di vista geografico molto avanzate. Insomma, una serie di interviste condotte su grandi campioni, l'80-90% dei proprietari, non solo più occidentali, si reputa genitore dei propri pets. Poi cani e gatti o conigli sono più agevolati, difficile sentirsi papà di un pitone. Sta di fatto che è accaduto questo fenomeno. E questo ha cambiato il rapporto con gli animali, naturalmente. Lo ha cambiato per due ragioni. La prima è che si è allungata naturalmente la loro speranza di vita alla nascita. Cani e gatti oggi vivono mediamente il doppio degli anni rispetto a 30 anni fa. Sappiamo benissimo che condividere 10, 15 o 20 anni della propria esistenza con la stessa creaturina cambia comunque la natura del nostro rapporto e lo intensifica. Se a questo aggiungiamo il fatto che nutriamo nei loro confronti un affetto genitoriale, capiamo molte cose. Il fatto perché ormai nelle cause di separazione o divorzio la questione dell'affidamento del pet diventi centrale, perché l'elaborazione di lutti sia considerata equiparabile a quella della perdita di una persona, di un consanguineo. Cioè, il fatto di vivere sempre più in simbiosi, sono cambiate le leggi, con loro possiamo andare in vacanza, al cinema, sul luogo di lavoro, li possiamo portare in ospedale, c'è una legge regionale della Lombardia che autorizza alcune categorie a portare o farsi ricevere, farsi visitare dei propri pezzi in corsia. Quindi stando sempre più tempo insieme, condividendo sempre più esperienze, il rapporto diventa sempre più intenso. Questo spiega ovviamente anche atteggiamenti che ci possono sembrare eccessivi, quindi il fatto di considerarli alla stregua di figli fa gridare allo scandalo alcuni, mentre altri lo trovano del tutto naturale. A proposito di questo, lei per l'appunto affronta questa questione, cioè del fatto che la diffusione degli animali, la compagnia dei pets, si accompagna a un andamento demografico che vede fare sempre meno figli. Quindi c'è un nesso tra i due fenomeni? C'è un nesso vengono chiamati anche qui ERSA Children, bambini surrogato, e a livello mondiale, i dati sono peraltro dati attendibili, negli ultimi 10 anni i segmenti, se vogliamo, i gruppi di individui che si sono maggiormente legati sono single, in Italia sono 8 milioni single, ma su scala mondiale sono tantissimi, giovani coppie senza figli, e poi soprattutto la grande novità è che molte coppie di ultra 65 anni, in piena sindrome da nido vuoto, dopo essersi liberati a volte dopo decenni dei figli, ricascano in qualche modo e quindi decidono di prendersi in età avanzata un animale domestico su cui riversare ancora una volta un affetto molto profondo, molto intenso, molto compassionevole, per usare un termine corretto. L'altro aspetto che incide molto sulla diffusione di questo fenomeno è la crescita del benessere, come lei sottolinea nel libro. Sì, c'è una correlazione che gli economisti hanno colto da tempo tra numero di pets e livello di benessere di una popolazione. Le stime che ci sono prevedono che entro 4-5 anni il numero di pets ufficiali a livello mondiale superi quello degli under 14. Ci sarà un sorpasso dei pelosi sugli implumi, ed è un dato che deve far riflettere, perché in molte economie o paesi emergenti, insomma, in Cina o in Russia fino agli anni 80 era vietato tenerli, soprattutto nelle grandi città, per ragioni anche ideologiche. Da quando è stata liberalizzata, se vogliamo, la presenza, soprattutto in realtà urbane, il loro numero è esploso. Tant'è vero che può sembrare ridicolo, 2 anni fa la Cina ha varato la politica del pet unico, impedendo che ci siano appartamenti in cui ci siano 6 o 7 gatti o 10 cani. Possiamo però immaginare che in realtà, come la Cina o l'India, dove queste presenze sono limitate, ma che oggi stanno raggiungendo velocemente standard occidentali, la crescita sia vertiginosa. Cioè, infatti sono mercati che crescono in doppia cifra, è diventato di fatto un fenomeno globale, un fenomeno planetario. Però lei sottolinea che il mondo dei pets in realtà è un mondo global. In che senso? Perché ci sono stati 2 fenomeni che molti ascoltatori italiani ricordano. Io quest'anno compio 50 anni, mi ricordo ad esempio lo stupore con cui assistetti ai primi cani da slitta sulla scia di Armaduc del povero Fogar. Molte città, costiere italiane si riempirono di questi cani groenlandesi o islandesi, poi fu la volta dei levri afghani, poi fu la volta dei ciò-ciò, dei cani imperiali. Cioè, ci sono sempre state 2 tendenze parallele, da una parte la scoperta di razze esoticissime, adesso questa passione per i cani indiani, e sono razze antiche o africani, e al tempo stesso la scoperta di varietà ultralocali, quindi si scoprono ovviamente ceppi di razze localissime. Il numero, per dire, di razze riconosciute dagli enti internazionali continua a crescere. Oggi le razze canine sono circa 500, quelle feline sono 120, e quindi si aggiungono ovviamente, oltre poi agli esperimenti di ibridazione, frutti di ingegneria genetica, insomma, sono tante le componenti che rendono sempre più varia la popolazione pet. E ricordo, ma nell'interesse del lettore, che le categorie ufficiali di pet sono 6: cani, gatti, roditori lagomorfi, i pesci, che sono tanti, gli uccelli, tutti i tipi, e poi rettili e saure, comprese tartarughe. E per dire, anche in Italia sono tantissimi i possessori di sauri o di rettili, insomma, quindi c'è questa costante ricerca sia di animali molto rari, esotici, quelli che ovviamente possono essere importati legalmente, sia di varietà locali che rendono ricco il panorama. E poi c'è anche il lusso da pets di cui lei discute, lì non stiamo un po' esagerando secondo lei? Sì, io condivido assolutamente la sua impressione. Cioè, poi mi rendo conto che qualcuno può spendere $58,000 per un trasportino di Louis Vuitton, ma non penso che sia beato chi se lo può permettere. Cioè, c'è stata una deriva recente, ma c'è, è in corso, in cui spesso, questo vale soprattutto per i cani di piccola e media taglia, vengono esibiti come status symbol. Si parla non a caso di status dogs, di cani con status, per i quali si fanno piccole follie. Esistono, così come esistono rich kids of Instagram, esistono rich pets of Instagram, sono questi cani che vengono immortalati mentre sbocconcellano filetti o acquistano, vengono, indossano twin set di cashmere da €1,500. Questo rientra, se vogliamo, in una casistica di cui gli animali, poi l'ho detto recentemente da Desmond Morris, sono delle vittime innocenti, farebbero bene, credo farebbero volentieri a meno di andare in giro con il cappottino, gli stivaletti o le scarpe da montagna, ecco. E il fatto che si è creato un mercato parallelo, semi-umano, in cui vengono progettati e venduti beni e servizi per pets sempre più simili a quelli per umani, dalla pedicure per cani, cioè cani con le unghie smaltate, al doga, che è il doga per il, lo yoga per cani. Esistono cliniche dove vengono mandati a dimagrire, esistono prodotti di cosmesi o integratori alimentari, esistono linee di cibo vegane per gatti, ma ormai, avendoli considerati come degli umani, dispongono della possibilità di acquistare, mercé ai proprietari, in questo caso genitori, tutta una serie di beni e servizi che 10 anni fa non c'erano. Infatti soffrono anche delle nostre nevrosi, lei osserva. E poi conclude il libro sfatando un luogo comune, su questo vorrei concludere con lei, cioè non è vero che chi ama i pets disprezzi gli umani. No, da questo punto di vista, al di là delle solite vulgate di chi vuole l'amico degli animali, inimico del genere umano, non è così. Poi il libro spesso ha dei passaggi comici, è un libro comunque che cerca di ironizzare su alcuni elementi, ma non su questo punto. Le ricerche condotte su grandi campioni dimostrano che in realtà chi ama sinceramente gli animali non solo non disprezza affatto gli esseri umani, ma di solito è molto più civile, tollerante ed empatico di chi non li ama affatto o di chi li maltratta. Grazie a Guido Guerzoni, autore di Pets. Buona serata. Grazie, buona serata. Un animale non di compagnia che ci porta al centro di uno dei luoghi più martoriati del pianeta è l'uccello di cui ci parla Gianluca Serra, che è un biologo italiano che è stato impegnato per molti anni in un progetto scientifico in Siria, naturalmente nella Siria prima della guerra civile, dove aveva contribuito a realizzare le prime riserve naturali. E in questa missione Serra compie un'importante scoperta scientifica, Palmira, di cui parla nel libro Salame tornata, la parabola ecologica di un uccello sacro nella Siria di oggi, pubblicato da Exorma, 234 pagine, 15,90 euro. Salam, quello che dà il titolo al libro, è un ibis eremita, un uccello leggendario che era dato per estinto e che Serra è riuscito a far riprodurre e anche a far diffondere. È stata un'operazione non facile anche per l'opposizione di alcune organizzazioni non governative gelose della propria attività e dunque dei finanziamenti che ricevono. È stata quella di Serra un'autentica avventura nella quale si intrecciano naturalmente le vicende drammatiche della Siria contemporanea vissute sulla propria pelle da alcuni dei protagonisti del luogo che collaborarono con Serra al progetto protrattosi fino al fatale 2011. E da questo libro vi propongo la descrizione di una meta ormai vietata, appunto la mitica Palmira. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Ma cos'è quest'estate? Semplice, l'appuntamento estivo con l'attualità di Radio 24. Le storie di cronaca più importanti, i numeri di un'Italia in continuo cambiamento e un po' di leggerezza sotto l'ombrellone. Ma cos'è quest'estate? Con Elisabetta Fiorito, Roberta Giordano e Deborah Rosciani. Dal 31 luglio alle 8 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Comincio adesso a consigliarvi alcune letture adatte all'estate e comincio con un grande scrittore francese che fu insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1921, Anatole France, che fu un grande descrittore della Francia borghese dei suoi tempi. Lo fece in particolare nel suo ultimo capolavoro, La rivolta degli angeli, che riscosse alla sua pubblicazione nel 1914 un enorme successo e vendette in sei settimane oltre 60.000 copie. Questo libro ci è riproposto da Lindau con la traduzione di Alessandra Baldasseroni, 302 pagine, 19 euro. Questo è un libro curioso, arricchito anche delle illustrazioni dell'artista svizzero-francese Charles Emile Egli. Curioso perché parte da un altolocato ambiente dove regna un'autorevole famiglia parigina, di cui è espressione significativa il figlio Maurice, che fa di tutto per godersi la propria condizione sociale nel modo più tranquillo possibile. Nell'ovattato mondo de Parvieux, questa è la famiglia, in particolare nella mirabolante biblioteca di 360.000 volumi che aveva messo insieme il bisnonno del protagonista, avviene un inspiegabile fenomeno che darà il via all'avventura, quella di un angelo ribelle e che poi l'angelo custode di Maurice, che egli incontra nel bel mezzo di un amplesso e che ha niente meno che l'obiettivo di riproporre la rivolta degli angeli contro il creatore. Naturalmente la trama ha un carattere ironico e simbolico e la rivolta degli angeli diventa l'occasione per una riflessione sulla religione, sul senso del sacro e sul potere nella cornice di una descrizione distaccata della Francia ufficiale d'inizio Novecento. La rivolta sarà ricca, come sempre avviene in questi casi, di colpi di scena, foriera di esiti inaspettati che continueranno a coinvolgere Maurice finché alla fine sarà proprio Satana a dare una lezione a Dio e alle sue truppe, dichiarando che la vera guerra sarà vinta quando gli uomini avranno distrutto l'ignoranza e la paura. Pressoché coetaneo a Franz è un grande e forse trascurato scrittore italiano, Guido Gozzano, di cui Avagliano ripropone tutti i racconti in un'edizione curata da Flaminio De Biagi, 446 pagine, 17 euro. Questa è un'operazione opportuna perché Gozzano, come spiega il curatore nell'introduzione, rappresenta veramente uno dei simboli del decadentismo, ossia del sentimento della crisi incombente che si manifestò in letteratura tra l'Ottocento e il Novecento. In fondo, in Gozzano, scrive Di Biagi, troviamo la celebrazione di quella crisi e di quella incapacità di adeguamento del letterato moderno alle nuove realtà circostanti, al trasformarsi della società industriale avanzata. In quella parabola giunge globalmente ben ricostruibile il percorso che conduce Gozzano dall'iniziale superamento del dannunzianesimo al farsi prima voce portante del Novecento italiano. E questa capacità di Gozzano rifulse non solo nei versi, che sono forse più famosi, ma soprattutto nei racconti e nelle novelle che erano rimaste disperse sulle varie testate sulle quali l'autore le aveva pubblicate. Soltanto nel 1983 sarebbero stati raccolti questi scritti, consentendo così di scoprire in Gozzano, e cito ancora il curatore, un novelliere raffinato e garbatamente ironico. Torniamo alla Francia con un altro grandissimo scrittore francese, questo a noi più vicino anche come sensibilità, Albert Camus, che è stato il premio Nobel per la letteratura nel 1957 e che morì pochi anni dopo, nel 1960, uno dei grandi autori del Novecento, di cui segnalo la ripubblicazione di uno dei classici più noti, cioè La Peste, con la nuova traduzione di Jasmina Meloas per Bompiani, 326 pagine, 13 euro. È un romanzo di 70 anni fa, fu pubblicato infatti nel 1947, che segnò la cultura del dopoguerra e che racconta di un'epidemia che scoppia ad Oranò, nell'Algeria, allora francese, che fu subito letto come un'allegoria del male che si era espresso pochi anni prima nella guerra mondiale, ma anche della disperata rivolta contro il male espressa nelle righe che adesso vi propongo. E quel che resta infatti da riferire prima di giungere al culmine della peste, mentre il flagello radunava le forze per scagliarle sulla città e impadronirsene una volta per tutte, sono i lunghi sforzi disperati e monotoni che alcuni individui, come Rambert, facevano ancora per ritrovare la felicità e sottrarre alla peste quella parte di se stessi che strenuamente difendevano. Era il loro modo di rifiutare l'asservimento che li minacciava, e benché all'apparenza quel rifiuto non fosse efficace quanto l'altro, è opinione del narratore che avesse comunque un senso e pur nella sua vanità e con le sue contraddizioni, fosse la testimonianza di quanto allora c'era di nobile in ciascuno di noi. E due figure della storia della letteratura francese troviamo in un libro pubblicato da Aragno, dedicato al famoso Talleyrand. È la biografia, scritto da uno dei grandi scrittori dell'Ottocento, cioè Charles Augustin de Sainte-Beuve, che si intitola appunto Talleyrand, è pubblicato da Aragno, 168 pagine, 15 euro, tradotto da Henry Fust ed è introdotto da Francesco Perfetti, il quale sottolinea innanzitutto il ruolo predominante che Sainte-Beuve ebbe nell'ambito della letteratura francese dell'Ottocento, una sorta di pontefice massimo delle lettere, così venne definito. Questo ritratto del cinico Talleyrand fu ispirato da una biografia di uno studioso e diplomatico britannico che, secondo lo scrittore francese, non aveva messo in luce certi difetti fondamentali di Talleyrand, e cioè il meraviglioso fiuto degli avvenimenti, l'arte di cogliere il momento, la giustezza occorrendo la risolutezza dei consigli. Tutte quelle qualità Talleyrand le aveva in grado eminente, ma una volta detto e riconosciuto questo, aggiunge Sainte-Beuve, bisogna aggiungere che egli non mirava in fin dei conti se non a riuscire personalmente a trarre profitto dalle circostanze. L'amore del bene pubblico, la grandezza dello Stato e la sua fama nel mondo non lo preoccupavano se non mediocremente durante le sue veglie. Non aveva affatto, conclude lo scrittore, l'alta e nobile ambizione di quelle anime immoderate alla Richelieu. La sua mente acuta, che aveva orrore per le sciocchezze, per lui era solo uno strumento. Non pensava ad altro se non ad raggirare il prossimo, a ingannare e a intimorire. Quindi, come vedete, un ritratto tutt'altro che simpatetico. E infatti, fin dalle prime righe, l'autore definisce Talleyrand come un attore consumato, accompagnandoci poi nelle tappe della sua carriera di famoso e forse insuperato opportunista. E rimaniamo in Francia parlando di un altro borghese, una figura un po' dimenticata ma affascinante sia dell'Italia che della Francia dell'Ottocento. Se andrete a Parigi o se siete a Parigi in questi giorni, vi consiglio di fare un salto al Museo Cernuschi, fondato nel 1898 e tra i più importanti in Europa per l'arte cinese orientale. Fu raccolto con oltre 5.000 pezzi, tra cui il famoso Buddha Amida, di origine giapponese per l'appunto, nel corso di un viaggio intorno al mondo tra il 1871 e il 1873, e venne poi regalato con il palazzo d'abitazione che la conteneva alla città di Parigi. Da chi? Da un collezionista e mecenate di origine italiana, il milanese Enrico Cernuschi, che apparteneva a una buona famiglia borghese milanese, che era stato uno dei protagonisti del Risorgimento, in particolare delle Cinque Giornate, ma soprattutto poi della finanza e di quello che potremmo chiamare oggi il volontariato. E ne presenta la figura, una figura che è certamente affascinante, Antonella Gazzetta, nel libro Il banchiere del Rinascimento, la storia di Enrico Cernuschi, pubblicato da Jouvence, 238 pagine, 20 euro. Cernuschi dunque era nato nel 21, fu uno dei protagonisti, come vi dicevo, delle Cinque Giornate, e anzi fu incarcerato perché considerato dai suoi colleghi troppo radicale, e proprio per il ruolo che i Martiniti avevano svolto durante quell'evento, durante le Cinque Giornate, Cernuschi destinò un generosissimo lascito all'istituto. Poi andò a Roma durante la Repubblica Romana, sarà arrestato anche lì perché accusato di essere anarchico, ma assolto, un'esperienza che lo spinse poi ad abbandonare l'Italia. Un'esperienza che lo spinse a potenziare in lui la maturazione politica, l'anticlericalismo, l'odio contro i Savoia e il potere politico del Vaticano, ci dice l'autrice. Andò allora a Isola in Francia, fece carriera nel settore bancario, litigherà con Cavour, diventerà ricco, autorevole, operando nella finanza. Tra l'altro il primo successo finanziario fu dovuto alla liberalizzazione delle macellerie, di cui Cernuschi seppe approfittare immediatamente. Insomma, una figura affascinante anche per il lascito, non soltanto per il ricordo dei Martiniti, ma soprattutto per il Museo Parigino. E a proposito del Risorgimento italiano, vi segnalo innanzitutto la biografia di uno dei padri dell'Unità d'Italia, Vittorio Emanuele II, scritta dallo storico Adriano Viarengo per Salerno, 562 pagine, 29 euro. Vittorio Emanuele II, come ricorderete, fu il primo re d'Italia fino alla morte, avvenuta nel 1878, e fu certamente uno dei protagonisti della storia d'Italia. Questa è una biografia appassionante che si intreccia con la storia del nostro paese, che Viarengo ci restituisce appunto con passione, con una ricchezza di documenti e con una grande capacità di farsi leggere da tutti. Un episodio curioso del Risorgimento, avvenuto in uno dei momenti più caldi, è quello raccontato da Nico Perrone, che è uno storico a Bari e che ha scritto Arrestate Garibaldi, l'ordine impossibile di Cavour, pubblicato da Salerno, 102 pagine, 8,90 euro. In effetti Cavour ci provò. Quando Garibaldi nel 1860, dopo aver conquistato la Sicilia, arriva a Napoli, si svolsero alcuni fatti rimasti abbastanza trascurati che denunciarono il tentativo di Cavour di anticipare Garibaldi e di conquistare con le truppe sabaude la capitale borbonica. Ma il tradimento di Liborio Romano, che era ministro dell'interno dei Borboni, bloccherà il tentativo del primo ministro piemontese, col quale precedentemente pure egli aveva trattato segretamente. Insomma, Romano, giocando su due tavoli, alla fine scommette su Garibaldi, che entrerà a Napoli, suscitando le massime preoccupazioni di Cavour, che vuole evitare ogni scandalo internazionale. Per questo Cavour cerca di far scoppiare dei moti che potessero giustificare un intervento estero e si orienta verso una soluzione che faccia di Napoli un protettorato sabaudo dopo il ristabilimento dell'ordine, che passi anche attraverso l'arresto di Garibaldi. Ma i fatti andranno appunto in un altro modo, anche perché, spiega per dietro Garibaldi c'è il benestare largo del ceto dirigente locale, buona parte dei proprietari dei terreni, la piccola nobiltà decaduta, i loro intendenti, una porzione del clero. Sono loro a veicolare il gradimento del popolo. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto la riedizione di un libro su un personaggio molto importante del Novecento, Raffaele Mattioli, il mitico capo della Banca Commerciale Italiana, di cui ha scritto la biografia Sandro Gerbi, Raffaele Mattioli e il filosofo Domato, storia di un'amicizia, pubblicata da Oepli, 19,90 euro, 224 pagine. Qui si parla in particolare dell'intenso rapporto che Mattioli ebbe con Antonello Gerbi, un importante intellettuale dell'epoca che era diventato direttore dell'ufficio studi della Banca Commerciale. Poi vi segnalo un libro di storia che è scritto da un bravo divulgatore come Gianni Oliva, che ha pubblicato Combattere dagli Arditi ai Marò, storia dei corpi speciali italiani, Mondadori, 234 pagine, 20 euro. Un volume nel quale Oliva prosegue il suo impegno a far conoscere pagine meno note della storia nazionale, magari, come particolarmente in questo caso, censurate spesso dal conformismo e dalla deformazione ideologica. Infine, un romanzo che è il seguito di un grande successo internazionale basato su una trama mozzafiata condita da una buona spruzzata di erotismo. L'autrice Liza Hilton, che dopo il successo di Maestra torna con Domina, pubblicato da Longanesi, tradotto da Sara Caraffini, 416 pagine, 16,90 euro, ambientato nel mondo dell'arte e delle gallerie d'arte, con un baricentro particolare basato su Venezia. E a questo punto il confettino. Vi segnalo un libro che potrà tornare utile nelle serate estive, soprattutto ai genitori. È un libro di Carl Johan Forsen Erlin, che ha scritto L'elefantina che voleva addormentarsi. L'autore è famoso perché è uno svedese esperto di scienze comportamentali, autore di un libro che ha avuto un enorme successo e che ha sbancato con Amazon. Questo appunto è il suo nuovo titolo, L'elefantina che voleva addormentarsi, pubblicato da Mondadori, 36 pagine, 14,90 euro, illustrato da Sidney Hanson e tradotto da Laura Cangemi, e come recita il sottotitolo ci presenta il nuovo modo di far addormentare i bambini, quindi una storia studiata con un obiettivo preciso che può essere utile a tutti i giovani genitori. E con questo ringrazio Guido Scotti, redazione, e Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.